U-Zone. Incontro con gli europarlamentari. Nome? Patrizia Toia. Età? Sono nata nel 1950, ho fatto un po' i conti. Nata? Fogliano Milanese. Eletta in? Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta. Con quanti voti? Credo intorno agli 80.000 voti, 90.000 voti. Partito politico? Partito Democratico. Gruppo politico? Gruppo Europeo dei Socialisti e Democratici. Segni particolari? No, non credo di averne. Competenze europee in 10 parole? Conoscenza dell'Europa, conoscenza dei dossier, delle materie, presenza, continuità nella presenza, grande passione per l'Europa, questa è scontata, grande convinzione europeista. Benvenuta nella U-Zone di Radio 24 da Silvia Bernardi. I migranti stanno dividendo l'Europa, Schengen sì o no? Schengen sì, senza Schengen non c'è più neanche l'Europa. Gli hotspot fermeranno l'emergenza? No, gli hotspot non fermeranno, l'emergenza la fermerà un rapporto diverso con i paesi africani, la possibilità di porre fine alle guerre. Ricerca e innovazioni, quali risorse europee? Le risorse europee sono tante, sono quelle del programma Horizon 2020, che è il grande programma di ricerca, sono quelle anche gli specifici settori di ricerca, sono quelli per esempio del fondo per la ricerca dell'acciaio, le risorse sono parecchie per la ricerca e l'innovazione, il problema è usarle bene. Qual è il paese europeo che investe di più nella ricerca? Ma sicuramente la Germania e con lei anche altri paesi del nord dell'Europa. Quello che investe meno? Ma questa è una bella gara, ce ne sono parecchi di paesi che investono poco, l'Italia non è tra i più brillanti, si colloca un po' a metà tra investimenti pubblici e privati, non mi piace inferire sui soliti paesi di una parte orientale o di una parte del sud dell'Europa, ma insomma avete capito. Brevetti industriali e cervelli in fuga, l'Italia è sul podio per produzione ma maglia nera per investimenti. Sì, fino ad ora è stato abbastanza così, nel senso che noi abbiamo una grande capacità di produrre idee, ma non abbiamo un sistema che aiuta poi facilmente il passaggio dai risultati della ricerca alla sperimentazione tecnologica nelle imprese. Che cos'è l'Unione dell'Energia? Noi abbiamo provato proprio un documento sull'Unione dell'Energia, ma è tutto un filone di lavoro, è tutto per far sì che l'energia in Europa sia più sicura nell'approvvigionamento, cioè dobbiamo sapere di averne abbastanza per i nostri bisogni, sapendo che vengono da viene da paesi in gran parte paesi molto instabili, dobbiamo diversificare le fonti, quindi non solo oil ma anche tutte le nuove energie, quindi diversificazioni vuol dire avere delle buone reti, interconnessione, vuol dire fare solidarietà tra i paesi, cioè avere possibilità anche di aiutarsi in un unico mercato, non 28 mercati, e soprattutto però vuol dire cambiare e avviarsi nella transizione energetica, cioè un nuovo modello anche di produzione e di utilizzo delle fonti. Un suo pregio? Costante, ostinata e tenace, nel 23, ma sullo stesso modo di dire la stessa cosa. Un suo difetto? Sono abbastanza pignola fino al punto di essere un difetto e anche un pochino forse permalosa, non lo so. U-Zone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus.